giorno del mondo della notte Italia. Sabato 28 giugno 2008, la console micidiale Metempsicosi, Mario Più Zinky Ride. Le mani al cielo e ballare! Super Mario Più! La notte del presidente! Mario Più e Zinky la console! Insomnia, Metempsicosi, Matrix, Mario Più! ladies and gentlemen, sta suonando Mario Più. La console speciale. Radi Station, baby. La console, la speciale console. Tutte le mani al cielo. Il giullare maledetto è Super Mario. La console Netflix. Netflix. mai più. Come on baby, let me fire. Welcome to the other side, special one DJ. Making up your mind, your mind. nostro amore. Siamo un bello Let My Fire Walk. Quel cazzo di brivido dietro la schiena, dritto nella tua testa, colpisce il tuo cervello e ti porta fuori. Oh! sabato 28. Sta suonando Mario. DJ Matrix Love, 28 giugno 2008, la notte del presidente Super Mario DJ. That sun, it doesn't shine anymore, and instead stay you that I adore, and I know that we'll have. Ricordo vietato i cerchi, grazie. Gli antifiga Matrix. We'll be right back. yo. Satisfaction everybody love. Mario! Semplicemente le 2.45 della notte, in esclusiva mondiale per voi, 100% Super Mari Movimento Ride. La console, la speciale super console. Qu'est-ce que vous voulez? Hashish ou opium? Sono cazzi vostri. Qu'est-ce Mario que vous Piu voulez? Zichi. Techno Minimal Tronic. Il numero uno, il Qu'est-ce Matrix. Hashish ou opium? Hashish. Opium. Suivez-moi. Qu'est-ce qui c'est? Un client. Il vient de la part d'Astan. Il voudrait fumer l'opium. Qui vient? Qui c'est ça? Toutes les mani al cielo! La speciale console! Qu'est-ce que vous voulez? Hashish? Opium. Suivez-moi. La console micidiale. Mario Piu, Zighi Giullare. Qu'est-ce que vous voulez? Hashish? Opium? Qu'est-ce que vous voulez? Hashish? Opium? Suivez-moi. Qu'est-ce qui c'est? Un client. Il vient de la part d'Astan. Il voudrait fumer l'opium. Il y a qui fait ça? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Il vient de la Quelle part d'Astan. Quelle cazzo di mani. Il voudrait fumer l'opium. L'orgasmo Italia. Volevi l'orgasmo? Quel cazzo di orgasmo? L'orgasmo musicale Matrix. Voilà une natine occupée. La nostra console. Resident DJ Mario Piu e Zichi Wright. Qu'est-ce que vous voulez? Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Suivez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Love you, love you, want you. Come on, come on, come on, DJ. This is special, everybody, one day. Ripartire. Ti fa ripartire, Mario. del presidente. Speciale sabato 28 giugno 2008, 3:37, Mario Piu. Ci regala il primo disco storia Matrix. DJ. Come on, baby, let me fire, DJ. Everybody, satisfaction of you one day. This is Yaman Bombo Club. Più. Come on. Everybody satisfaction, love you, want you, welcome. Mario Più, presidente. Speciale Divine Stage Insomnia. mettere che giullare la console. La storia della musica ve la ricordavate oppure no? Sono cazzi vostri Matrix! Tonight I'm gonna take you on a special tour of Club Bad. Ladies and gentlemen, la puttana di Mario Più! Sacchiamo la musica e ce ne andiamo dai coglioni. Promesso. Cerchi, fai cagare. Matrix Elettronica Minimal Techno. Non cerchio antifiga. Suona Mario. Shevchenko, suona Mario. We'll be right back. Come on, Lord. Dal mondo del giorno nel mondo della notte, Italia. Impazzire! Della techno, coloro che l'hanno inventata, XR, Insomnia, Dylan, Metensicosi, Electronic, Techno, Tronic Lovers, Mario Più, Ricky Leroy, Giochi di Conti, Sandro Vivo, Franchino, Zicchi, Pago Aymar, la console. Le videoproiezioni Lola, le pubbliche relazioni Arci, le mani al cielo Italia! Sì, lo cercavi maledetto! Show now. più dal mondo del giorno nel mondo della notte. Ti ricordi dell'insonnia? Generation, Love You, Want You, One Day. Dissociamo a Bobo Club, vi ricordo i cerchi no, l'antifiga no. Più, come sai? Sì, dove vuoi Mario? Il 28 giugno 2008, la notte del presidente Italia. In questo momento è il 3:45 della notte, sta suonando Super Mario. yo, everybody love you, want your satisfaction right. Ladies and gentlemen, sabato 28 giugno 2008, in esclusiva nazionale per voi, direttamente dalla Metemsi Cosi Italia, sta suonando Super Mario! Tutte le mani al cielo! Mario Piuzzi, il giullare, quella cazzo di console! Speciale console, le mani al cielo, un applauso per Mario Più e Zighi, grazie, insieme sino alla fine, tutte le mani al cielo, After Hour. Come on, dance with me, move your body, your legs with me. Come on, body, dance with me, move your body, your dance with me, move your body, your legs a bit. Questa notte ve la regaliamo, Matrix. Insieme a voi, un applauso per Mario Più e Zichi. Yeah. ricordi tanti anni fa. Era l'Insomnia, la Pet Shop Place, o era semplicemente il BXR Super Club, oppure uno dei nostri DJ che ci rappresentava in giro per il mondo, Mario! Mario Più! Come on, come on, come on, come on! Come on, baby, everybody love! La console! Ti piace? Ti porta fuori! Al Manuel Top, non è per dirvi qualcosa, ma questo disco lo suonava Mario Pio nel 1995-96 negli After Hour a Roma. Era l'Insomnia, era la Divine Stage in After Hour. Me li ricordo che cazzo di After Hour. Arrivavi sino alle 3 del pomeriggio senza capire un cazzo, col dito indice che si alzava al cielo. After Hour, lo volevi puttana o lo volevi micidiale in After Hour? Sì, tutte le mani al cielo in After Hour. Super Mario in una notte speciale Matrix. Come on, let's go everybody. 28 giugno 2008, la storia della musica, Mario Più, Zichi Giullare. La storia del suono. Insomnia! Divine Stage, Patchwork Place! La storia. La storia della musica. Pronti ad impazzire, le mani al cielo e ballare! Come on, let's work everybody più. Ladies and gentlemen, in questo momento alla super console, direttamente dalla Metempsicosi Italia, le mani al cielo, sta suonando Mario Più. We'll be right back. single ci leviamo dai coglioni. Se non facciamo i cerchi andiamo avanti fino alla fine, altrimenti ci leviamo dalle palle. Gli Antifiga. Mario, Mario, Mario. Dance with love. Come on, let's roll. One DJ, right? Questo è il Matrix. Pew. Yeah. Everybody dance with love, come on DJ. Satisfaction, love you, want you, everybody. Jump one day. Le mani al cielo. Un applauso per la...